Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. A soli 15 km dalla Piazza del Duomo di Milano, che cosa c'è? Ci sono le fragole che nascono a 1,5 metri da terra. E qui a Food Lab, il programma che vi racconta le nuove frontiere dell'agricoltura e del cibo del futuro, poteva mancare? Assolutamente no, via! Allora diamo il benvenuto ad un agricoltore che potremmo definire 2.0. Si chiama Guglielmo Stagno dal Contres, abita in provincia di Milano a soli 15 chilometri da Piazza Duomo. E Guglielmo, insomma, raccontaci tu che cosa hai fatto. Hai sospeso le fragole fuori dal suolo. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, coltivo queste fragole in fuorisuolo, 1,5 metri da terra, all'interno di delle serre fotovoltaiche che producono energia, pulita energia fotovoltaica, e coltiviamo queste fragole in fuorisuolo. Ti abbiamo visto in televisione l'altra sera, c'è come un ripiano molto semplice, sospeso, sul quale ci sono delle cassette e le fragole vengono giù, ovviamente crescono verso il suolo. Assolutamente, le fragole vengono coltivate in questi vasi da 5 litri l'uno, sono dei vasi dove dentro c'è della torba di cocco, dove noi piantiamo a fine luglio le piantine, le teniamo tutto l'inverno e poi arriva la produzione importante, che è quella che è della primavera. Le fragole crescono sotto queste serre e poi iniziano a penzolare intorno al periodo di luglio tutti i frutti, tutte queste fragole, che poi vengono raccolte in piedi da tutti i nostri raccoglitori a mano. Allora, hai detto torba di cocco, intanto, come mai questa scelta? È una scelta molto moderna, è una scelta che permette di controllare tutti i nutrimenti, le irrigazioni che vengono date alle piante. Noi abbiamo un computer che miscela tutti i concimi insieme anche agli acidi, comunque per riuscire a creare un obiettivo di conducibilità e acidità dell'acqua che viene data alle piante, quindi tutti i nutrimenti. Quello che facciamo noi è controllare la vita della pianta. Sicuramente con questo tipo di coltivazione riusciamo a mettere il doppio delle piantine a metro quadrato dentro le serre, riusciamo a ottimizzare meglio la coltivazione, si raccoglie anche più velocemente perché noi raccogliamo in piedi. Ecco, questo è anche questo è il motivo. È allora, essendo appunto sollevate, intanto appunto i raccoglitori possono non piegarsi e questo credo che sia un gran vantaggio dal punto di vista del lavoro umano. E poi c'è un aumento di resa. Mettiamo più piante a metro quadrato. Chiaramente quello che dico sempre io è che a Milano non ha mai coltivato nessuno fragole, quindi noi è da 3 anni che continuiamo a fare esperimenti per capire quali sono le varietà migliori che si riescono a coltivare dentro, e sicuramente stiamo ottenendo degli importanti risultati sulle fragoline di bosco, che sono quelle fragoline molto piccole che noi, pensate bene, ci stiamo un'ora a raccogliere un chilo, quindi è fondamentale averle 1,5 metri ecco, da terra, perché se fossimo chinati non le raccoglieremo più. Certo. Le fragole vengono coltivate che siano a terra o che siano su questi ripiani in delle file. Se tu hai le fragole sopra le spalle o comunque la testa delle spalle, tu cammini comunque sotto questi ripiani e quindi riesci a camminare e a muoverti, quindi si riescono a mettere a parità di spazio più fili di fragole. Poi il colore rosso tu lo hai ad altezza degli occhi e quindi riesci a capire quando una fragola è pronta e quando una fragola invece deve essere raccolta magari tra... Noi qui a Food Lab raccontiamo un po' quello che è lo scenario futuro dell'agricoltura e del cibo, quindi per quello abbiamo deciso di raccontare queste serre così, così innovative. Ecco, quello che vogliamo raccontare è la tecnologia. Prima tu ci parlavi di computer, tutto ciò è gestito attraverso un software, tu hai un cruscotto per così dire per gestire tutta questa produzione, anche l'irrigazione. Per forza, noi abbiamo 3 vasche, una vasca A, una vasca B, una vasca dell'acido. Noi abbiamo un computer che è molto complesso ma anche molto semplice da utilizzare, dove noi andiamo a indicare target, i nostri obiettivi di concimazione che vogliamo dare alle piante, andiamo a dare i target temporali, ovvero per quanto tempo vogliamo coltivare e vogliamo irrigare le piante, e soprattutto indichiamo anche quale elettrovalvola, quale settore bisogna irrigare. Automaticamente il computer ha degli orari prestabiliti che noi andiamo a stabilire si apre e dà l'acqua a tutte le piante, perché se pensate che noi abbiamo 300-400 mila piantine di fragole dentro le serre, non possiamo impazzire a dare l'acqua a ogni pianta. Però è sempre fondamentale il controllo umano, perché quello che continuiamo a fare noi è controllare il drenaggio, perché noi vediamo poi l'acqua che viene, come dire, non assorbita dalle piante, ci fa capire se le piante hanno bisogno di più acqua, se non esce, o se ne esce tanto vuol dire che le piante hanno mangiato già tanto. La superficie che avete è? Noi abbiamo 25.000 metri quadrati di serre coperte con serre moderne. E cosa producono? Cosa producono? Quasi un centinaio di tonnellate di fragole, ecco, all'interno delle serre durante l'anno, nel senso che ci sono dei picchi di produzione che è il periodo primaverile e poi c'è anche un periodo invernale dove si produce tanto. Il problema di base è quando c'è anche molto caldo, quando c'è molto caldo non si riescono a fare molto bene le fragole. Accanto a quello poi noi abbiamo anche altri campi, perché abbiamo anche delle fragole coltivate a terra, abbiamo anche i mirtilli e frutti di bosco coltivati con la stessa idea, no? Sempre quello del fuorisuolo. Avete anche un QR code che dà informazioni al consumatore su addirittura la persona che ha raccolto la fragola che stiamo mangiando. È un'idea molto carina che mi è venuta l'anno scorso. Noi comunque per controllare tutti i ragazzi abbiamo un codice, ogni ragazzo c'è il suo codice e che attacca sulla sua singola cassetta che raccoglie. Nel momento in cui tutte le cassette arrivano in magazzino, quello che noi facciamo è la lettura di questi codici e andiamo a stampare per ogni vaschetta che viene raccolta questo QR code, dove sostanzialmente il consumatore ha la possibilità di vedere di avere a portata di mano tutte le informazioni della vaschetta che sta andando a mangiare, che varietà è. E così cominciamo a rendere, come dire, consapevole il consumatore di tutte le informazioni che ci sono dietro una singola vaschetta. Ci vuole un anno per avere quella vaschetta lì. Ricordiamo che Guglielmo ha 27 anni, si sta laureando in Bocconi piano piano, perché è impegnato con l'azienda, che non abbiamo detto. Allora, si trova a Cassina de Pecchi, si chiama Straberry, e ovviamente tutti gli ascoltatori che si trovassero in zona possono venire a trovarti perché è aperta al pubblico. Il vero obiettivo a livello aziendale è quello di creare questo parco agricolo alle porte di Milano. Quanto noi siamo nati come produttori di fragole e di frutti di bosco, da quest'anno abbiamo anche degli orti che affittiamo, 50 metri quadrati che affittiamo a privati, abbiamo anche un grande orto di 30.000 metri quadrati dove noi stiamo coltivando le verdure, proprio in questi giorni stanno uscendo le zucchine, i peperoni e le melanzane, quindi tutte le insalate, tutte le verdure che ha un orto assolutamente bio. Abbiamo anche per esempio un labirinto che adesso andiamo a inaugurare di girasoli e di mais dove la gente può venire a divertirsi. Ma Guglielmo, dobbiamo venire a trovarti Fragoland e guardare un po' tutto, no? Va bene, grazie davvero Guglielmo, ricordiamo il tuo nome, Guglielmo Stagno dal Contrest, grazie davvero e continua così. Grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie. Le angurie che pendono no, forse quelle no. Quelle sono un po' più pesanti, non so, potremmo chiedere a Guglielmo di fare un esperimento che vede molto lungo e lontano. Per oggi è tutto. Alla prossima!